Conto alla rovescia. L'Italia nello spazio. Cari ascoltatori di Radio 24, un buon pomeriggio da Gigi Donelli. Questo secondo ciclo di appuntamenti con l'attualità dello spazio inizia dalla California. Siamo infatti alla base di Vandenberg, dove attendiamo il lancio di un importante satellite italiano. Si tratta di Cosmo SkyMed, doveva partire 2 giorni fa, è stato rimandato a questa sera. Sentiamo perché del ritardo e sentiamo di che cosa si tratta dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese. Allora, presidente Saggese, stiamo aspettando il lancio, ma la prima domanda che le vorrei fare è: perché a volte ritardare paga? Ma diciamo che ritardare può pagare per 2 motivi. Il primo è che si attendono condizioni meteorologiche migliori, ottimali, e la finestra di lancio è molto piccola, 1 secondo, e quindi abbiamo 1 secondo al giorno per poter lanciare in condizioni perfette. Se le condizioni sono perfette, il satellite dura di più, invece che 5 può durare 7 anni. Il secondo punto è che l'affidabilità, l'importanza di avere tutto che funzioni perfettamente è basilare nei satelliti, e quindi avere pazienza, aspettare 48 ore può dare un risultato migliore. Presidente Saggese, parliamo di radar. Se vogliamo spaccare il mondo in due, abbiamo da una parte l'ottico che vede ciò che può vedere e poi il radar, più complicato ma con un potenziale formidabile. Sì, chiaramente la parte ottica è la riflessione su un satellite di quello che è il raggiamento solare. Quindi il satellite ottico deve sperare che non ci siano le nuvole per poter vedere l'oggetto a terra, e poi in realtà vede soltanto quello che il cervello permette di capire. Il radar ha caratteristiche completamente diverse, può bucare le nuvole, può vedere durante la notte, può vedere in condizioni climatiche terribili come durante le emergenze per alluvioni o durante l'esplosione di un vulcano, e può permettere anche di capire come l'evoluzione del fenomeno avviene nel tempo. Cioè l'elaborazione non è fatta dal cervello ma dalle macchine, si possono capire molte più cose che semplicemente guardando un'immagine ottica. 4 satelliti in orbita, stazione a terra, insomma un sistema molto complesso. Ma importante è il fatto che si riesca a vedere le immagini a terra con una ripetitività elevata. Alle nostre latitudini 4 satelliti consentono di vedere un'immagine ogni 6 ore e quindi di vedere l'evoluzione di fenomeni soltanto avendo i dati in tempi molto brevi, 12 ore dal momento in cui se ne ha bisogno al momento in cui si ha una mappa del territorio, permette di poter sfruttare appieno le capacità del satellite. È stato un grosso investimento, oltre 1.100 milioni di euro sul sistema, sui 4 satelliti e costi connessi. Oltre che costare tanto, è un sistema tecnologicamente difficile, un sistema complesso che ha richiesto masterizzare, come si usa dire oggi, cioè dominare settori assolutamente diversi fra di loro di tecnologia. E quindi quando un paese avanzato riesce a dominare questi settori, viene riconosciuto da altri paesi avanzati come un possibile partner. C'è in qualche modo la possibilità di entrare in un club dei grandi, e questo club dei grandi, nel caso dei satelliti di osservazione, sono i satelliti radar. Circa 180 le organizzazioni a cui regalate immagini, che significa? Noi abbiamo dato la possibilità a enti privati, pubblici, enti di ricerca di avere le immagini del satellite in maniera da sviluppare applicazioni. Le applicazioni sono le più varie e io penso che sia importante che queste organizzazioni ricevano le prime immagini gratuitamente per consentire a loro poi di sviluppare applicazioni. Cioè l'utente finale non vuole vedere l'immagine, vuole risolvere il suo problema. Se il terremoto ha causato danni, quanti danni ha causato, e se il territorio si è spostato, se nel mare le navi che stanno navigando portano armi o meno. Tutte queste immagini quindi in qualche modo sono evolutive. Le prime sono gratuitamente, speriamo che sviluppando applicazioni se ne domandino sempre di più a pagamento. Insomma, state coltivando la domanda. A proposito di parte economica e industriale, 4 satelliti realizzati in Italia. Sì, i satelliti sono completamente italiani, il fatto di averli realizzati in Italia consente all'industria di avere una TU nel mondo, nel momento in cui si presentano in campo internazionale, e di essere riconosciuti come fornitori di satelliti di alta tecnologia. Tra poche ore, e siamo alla conclusione, il lancio dunque, ma già si progetta il futuro. ma nel futuro, quando l'Italia ha scelto di entrare nel settore radar, ha scelto di starci dentro per sempre. Quindi c'è la seconda, c'è la terza generazione. La seconda in particolare avrà due satelliti nel 2014 e nel 2015 e i primi contratti saranno stipulati a novembre e all'inizio dell'anno prossimo. Grazie Enrico Saggese, lo ricordo, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. 3, 2, 1. We have ignition.